friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass stands a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Bene, bene, bene. Ciao a tutti, benvenuti alla undicesima puntata, vero? Prog 17. Undicesima puntata, buonasera a tutti. Una sì. Puntata speciale, come avevamo annunciato. Diciamo almeno di che programma è. Magari si confondono da casa. Cioè il programma è ovviamente il rovescio della medaglia, che come i nostri ascoltatori più attenti sapranno, siamo arrivati alla lettera Z e dopo una pausa invernale di 2 settimane siamo tornati con uno speciale su Emerson, Lake e Palmer. Perché diciamola tutta, Prog 12, noi ci siamo accorti sul contratto che alla 10ª puntata avevamo maturato 2 settimane di ferie, giusto? Sì, e l'abbiamo ovviamente consumate subito. Te cosa hai fatto? 2 settimane, perché io sei andato in vacanza in qualche posto esotico, esoterico? Ma no, più o meno sono rimasto qui a Firenze, nei vari quartieri. Nemmeno in tournée sei andato? No, ero in pausa, proprio in ferie totale. Tutti sì. I tuoi strumenti li hai presi e proprio attaccati al muro? Cioè sì, sono andato una volta a Compiobbi a fare una merenda con degli amici, ma niente. Non avete suonato comunque. No. Volevo andare in tournée, però con le mie concas nessuno mi ha chiamato. E... No, non mi funzionava nemmeno lo stereo in macchina, quindi... Proprio musica niente, zero. Niente. Ok, allora, come ha detto oggi Prog 12, come vi ha anticipato prima, oggi è una puntata un po' particolare, un po' speciale, perché approfondiremo, saremo, diciamo, detto in senso buono, saremo monotematici oggi, ossia approfondiremo uno dei gruppi, visto che nel 2016 ci hanno... Che come tutti ben sapete ci sono stati un sacco di vittime illustri nel campo della musica, vittime innocenti e non nel campo della musica, e visto che noi siamo una trasmissione prog, allora siccome il 2016 sono passati ad altra vita due dei tre componenti degli Emerson, Lake & Palmer, ci sembrava giusto nonché doveroso fare un approfondimento su quello che sono stati gli Emerson, Lake & Palmer. Fantastico. No, in questo approfondimento, diciamo, la puntata la possiamo chiamare Emerson, Lake & Palmer and Friends, perché... Friends, non cominciamo con l'inglese, cioè Prog 12, non cominciamo con l'inglese maccheronico, perché oggi è tutto, oggi è prog inglese, sicché di italiano non c'è nulla. Quindi se dizione. Cominciamo con Friends, partiamo male, prog 12, no. Ci vuole il traduttore, ci vuole una terza persona che non abbiamo che traduca ciò che cerchiamo di dire in un inglese maccheronico. Ecco. Certo, come sempre, anche con l'italiano abbiamo dei problemi. Soprattutto immagino. Prog 1, o il sottoscritto. Comunque, perché questi amici di Emerson, Lake & Palmer? Perché i tre membri di questo gruppo hanno suonato con altre formazioni. Sì, sì, sì, condivido tutto quello che dirai, condivido. Fino a qui ci siamo. No, in effetti vogliamo aprire un po', diciamo, fare un panorama storico del gruppo e poi passiamo alla musica. Che ne pensi, Prog 12? Sì, sì, sì, sì, va benissimo. Facciamo una panoramica su Emerson, Lake & Palmer e su tutti i vari gruppi, diciamo, satellite. Che mi piace, satellite mi piace perché comunque hanno suonato anche in formazioni nello stesso periodo contemporaneamente, quindi mentre suonavano con Emerson, Lake & Palmer c'erano ancora i residui degli altri vecchi gruppi di questi componenti. Sì, perché praticamente abbiamo scoperto che tutti e tre hanno avuto un'intensa carriera musicale. E quindi nulla, e ci piace approfondire, quindi spazieremo un po', non saranno solo gli Emerson, Lake & Palmer, ma anche, diciamo, come tutti i gruppi, come ha detto Prog 17 e mezzo, tutti i gruppi satellite che hanno girato intorno a quelli che sono stati Emerson, Lake & Palmer, presi chiaramente come singole entità musicali. E ricordiamo che nel 2016, precisamente, vi leggo le date, il 10 marzo del 2016 è morto Keith Emerson, che era il tastierista. Poi quello più recente, quindi più o meno un mese e mezzo fa, così, quindi il 7 dicembre per l'esattezza, è morto anche Greg Lake, bassista, e quindi quello rimasto in vita è voce. Nonché voce, esatto, poi lo diremo dopo come voce con chi è stato protagonista, e l'unico rimasto in vita è Carl Palmer, batterista, e speriamo che ritarda. Era anche il più giovane, è il più giovane del gruppo, quindi magari diamogli qualche possibilità in più. Diamogli qualche anno in più, perché sennò ci tocca rifare nel 2017 ancora un'altra puntata e tocca scavare ancora nei meandri di Emerson, Lake & Palmer. Che già questa è stata una ricerca abbastanza approfondita e siamo abbastanza soddisfatti di tutto quello che abbiamo trovato di loro. E partiamo proprio dal primo gruppo, dalla prima formazione di Carl Palmer, che si chiamavano gli Atomic Rooster, dove appunto Carl Palmer era partito nella sua carriera come batterista in questo gruppo, non proprio sonorità prog, ma più un hard rock di fine anni 60, un po' più psichedelico. Sì, sì. Poi si sono spinti fino a metà anni 80, diciamo, sì, anche sì. Gli Atomic Rooster, anche senza Carl Palmer, hanno avuto una discreta attività musicale. Sì. Infatti Palmer ha preso parte solo al primo disco degli Atomic Esattamente, Rooster. Esattamente. E proprio degli Atomic Rooster abbiamo deciso di mandare dal primo album che io credo Prog 12 sia omonimo, Atomic Rooster, vero? Sì, sì, sì, sì, che è uscito nel 1970 e Atomic Rooster, quindi Atomic Rooster o Rooster, insomma, perdonate l'inglese. Sarebbe il gallo atomico. Qualcosa, sì, qualcosa del genere, sì. Non Google Translate. E vi mandiamo degli Atomic Rooster. In successione li mixiamo Prog 12, ma sì. Sì, facciamo un mix dei 3, dei quattro brani che abbiamo scelto degli Atomic Rooster. Esatto, che manderemo in successione da quest'album, a mio parere molto molto bello, molto interessante, e manderemo Friday the First, Before Tomorrow, Sly, SSLY, sì. Perché c'è il nome del pezzo così, no, cioè, noi vi abbiamo chiesto scusa sin dall'inizio per il nostro inglese maccheronico, quindi accettateci per quello che siamo, e chiuderemo con Decline and Fall, e loro sono gli Atomic Rooster. Close behind. want you, I want you, baby. I want you, I want you, baby. I want you, I want you, baby. Yes, I do. I want you, I'll get you in the end. I want you, I'll get you in the end. I want you, I want you, baby. Yes, I do. Yes, I do. You, baby, yes, I do. Yes, I do. Bene, bene, bene. E sulle note degli Atomic Rooster, Decline and Fall, avete appena avuto modo di ascoltare un mega fantastico assolo al punto di Carl Palmer, che ha dato un po', ha dato i natali a questo gruppo, che appunto erano gli Atomic Rooster. E continuiamo ancora con un po' di biografia di Carl Palmer, che poi nel, diciamo, quando si è dichiarata chiusa l'esperienza, chiamiamola così, l'esperienza Emerson, Lake & Palmer, negli anni 80, nell'83, data del primo album, si forma una super band, dipende dai gusti, ma Prog 12 magari non concorda, però nasce una super band formata da che erano gli Asia, e che erano formati da quattro componenti, quindi che erano due degli Yes, Carl Palmer, e il terzo componente XES e King Crimson. Quindi a me personalmente piacciono molto anche gli Yes, e quindi si formò questo mega gruppo, sì, che era un super gruppo con diciamo singolarmente dei musicisti eccezionali, che però probabilmente con l'arrivo degli anni 80 qualcosa non è andato bene, perché sì, comunque musicalmente non davano, secondo me, nell'insieme non hanno dato il meglio di quello che avrebbero potuto fare, insomma. Sì, è vero, un gruppo appunto con sonorità lontanamente hard rock, con una piccola sfumatura prog, però con risultati non eccellenti, nonostante appunto, come dicevamo prima, era una, almeno così all'apparenza sembrava una super formazione. Va bene, via, abbiamo chiuso con il primo dei tre Emerson, Lake & Palmer, e possiamo passare al prossimo componente che esamineremo. È un po' una lezione universitaria, no? Il prossimo componente che esamineremo è Keith Emerson, nonché tastierista, che, come ricordiamo ancora, è morto il 10 marzo del 2016. E Keith Emerson comincia la sua esperienza come tastierista, come lo si può definire, no? Tastierista virtuoso, come bravo, esattamente, volevo che lo dicevi in inglese, però tastierista virtuoso diciamo, facciamo in dialetto, e lui comincia la sua esperienza con i Nice. I Nice è un gruppo che praticamente si forma nei tardi anni 60, aspetta un attimo, Keith Emerson collabora con i Nice ai loro primi tre album, che è un gruppo, diciamo, principalmente rock, però in qualche modo sono un po' l'inizio, l'antipasto di quello che sono stati gli Emerson, Lake & Palmer, perché comunque Keith Emerson alle tastiere aveva un ruolo abbastanza determinante, insomma si faceva notare, ecco, sì, diciamo così. Ci metteva del suo, parecchio del suo, e quindi comunque la caratteristica dei Nice era quasi totalmente legata alla figura di Emerson, che già dall'inizio ha avuto un grande successo, perché comunque era anche un, come si diceva, sia un virtuoso che uno spettacolarizzatore delle tastiere, no? Sì, sia come qualità che come quantità, appunto, perché spesso lo vediamo nelle foto, nei video, circondato da queste tastiere a 360 gradi, su più piani, su, lui si girava intorno suonando, sì. Poi dopo negli anni poi ha continuato a fare delle performance quasi fisiche su questa tastiera, la brutalizzava, diciamo, con piedi, coltelli, si ricorda anche all'Isola di Wight infilava dei coltelli tra i due tasti per tenere, diciamo, il suono fissato, no? Incastrava i due tasti e rimaneva il suono, l'accordo, e lui mentre magari si appoggiava a un'altra tastiera o si esibiva in qualche altra forma. Proprio, perché questo aneddoto, cioè, lo racconti solo ora? Cioè, sei un maledetto, cioè, ci si vede, si parla, si sta lì 16 ore a preparare la puntata, poi cioè, per fare il figo arrivi in trasmissione e tiri fuori. Perché non me l'hai detto qualche ora fa che sarà insieme? Ma perché si stava leggendo dalla stessa fonte, pensavo avessi letto anche te questa cosa. Patetiche manie di protagonismo di Brock Dodge. All'Isola di Wight non c'ero, però me l'hanno raccontato che faceva queste cose. È arrivato in ritardo in autostop, è arrivato che era bello e finito ogni cosa. Era finita anche la strada, perché appunto era un'isola e con l'autostop si andava poco lontano. Non c'era ancora i gommoni che portavano i disperati verso l'isola di Wight. Va bene. Come abbiamo detto, Keith Emerson partecipa ai primi tre album dei Day Nice, che sono: il primo album esce nel 78, e lo lascio pronunciare per dispetto, visto che per fare il figo tira fuori aneddoti particolari e interessanti. Il primo album lo faccio pronunciare proprio a Prog 13. Come si chiamava il primo album dei Nice? Allora, il primo album dei Nice si chiamava, ora lo dico così in scioglezza, ma è un po' si chiama The Thoughts of Emerlis Dubjack, che praticamente erano i pensieri di questo Emerlis Dubjack. No, erano i cognomi, è un mix dei cognomi dei componenti. Sì, era un mix di cognomi. Ora, questo aneddoto, ora mi prendo la rivincita. Prego. Perché tu non lo conosci, no, l'aneddoto. Lo conosco, ma ora non me lo ricordo. A casa lo sapevo. Sono i cognomi dei componenti che li hanno messi insieme ed è venuto fuori questo titolo originale, nonché singolare. E di questo album cosa vogliamo mandare? Io manderei Rondò. Dawn, sempre dell'album sopra citato. Dell'album qualche secondo fa citato, che non ripeteremo mai più. Comunque, l'album è del 1968, l'album di esordio di Emerson con i Nice. We'll be right back. paralyzed, completely in her senses as though she smiles on. In a January rain in the field she cries on in the first thrust of summer. Dawn is pregnant with promise and anticipation, and is murdered by the hand of the inevitable. Ok, allora questo era abbiamo presentato due brani del primo nonché impronunciabile album dei Nice, che per solidarietà a Prog 17 non pronuncerò nemmeno io. grazie. E nulla, andiamo avanti con la presentazione del secondo album dei Nice, vero? Prog 12. Andiamo avanti con il secondo album dei Nice, che è stato pubblicato nello stesso anno del primo, quindi nel 1968. Il titolo dell'album, e questa è una lingua, dati i miei studi classici, più appropriata, che ha un titolo in latino, che si chiama Ars Longa Vita Brevis. Preso, sembra, da un aforisma di Ippocrate, e un noto medico, scienziato medico, se così si può dire, dell'antica Grecia. Che non passeremo nessun pezzo di Ippocrate? Abbiamo un pezzo col flauto di Pan, dato in prestito proprio da Pan in persona, a Ippocrate. Pan, a Peter Pan. Che sta a significare che il, diciamo, letteralmente l'arte è lunga ma la vita è corta, diciamo, che però dice che per fare le cose, così più esteso, per fare le cose ci vuole tanto tempo, anche se la nostra vita ha un breve più o meno termine. Questo, come si legge anche nelle note di copertina, stava anche a significare che comunque vadano le cose, che quello che rimane dell'arte, quello che rimane della musica, anche se la vita termina, quello che succede nell'arte rimane ai posteri, comunque, no? Quello, un classico, diciamo, epiteto dell'arte in generale. Che comunque l'arte supera la vita stessa dell'artista e va avanti nel tempo, no? Prog 17, che c'è gente che ci aspetta a casa. Ora capisco i tuoi stoli, tu essere nostalgico della tua età dell'innocenza, però magari fai un riassunto del riassunto e... Va bene, no, quello, dai, quello che ho detto. Interessante il tuo punto di vista, che condivido a priori. Detto così, preso. Per fare cose ci vuole tanto tempo, ma poi si muore. il finale si muore, è fantastico. Sempre l'ho latino, riassunta un po', sì, più o meno. Un po' più evoluto del latino. Allora, e quindi che volevi presentare? Quale pezzo volevi presentare? Io volevo presentare di questo pezzo, di questo album, che comunque, come poi in tutta la carriera di Emerson, fa riferimento e prende spunto dalla musica classica. Vorrei presentare questo intermezzo From the Karelia Suite del 1968, Ars Longa Vita Brevis, in Ice, qui su Radio Wombat. Thank you. Lasciamo un sottofondo dei Nice dal secondo album dei Nice, Ars Longa Vita Brevis, e questo era Intermezzo from the Karelia Suite, che aiutami a ricordare, era di Sibelius, del compositore Sibelius, come molti altri brani in quegli anni dei Nice e poi dopo anche di Emerson Lake e Palmer. E venivano ripresi da compositori classici, hanno reinterpretato Bach, un sacco di compositori classici, e noti anche, e non anche qualche contemporaneo, comunque quello che riguarda la musica, più o meno la musica classica, dal 1600-1700 in poi. Ok. E dicevamo, la butto lì proprio così a manciate queste date così. Però no, siccome hanno fatto anche, hanno ripreso da Bach. Sì, ma tu sai l'ammirazione che provo per te, quindi qualsiasi cosa dici io mi bevo ogni cosa, quindi a priori condivido. E finché qualcuno ci aspetterà qui fuori dalle porte di Radio Wombat per farci pagare tutte le cazzate che abbiamo detto in questo periodo. E anche in quella situazione, in quel momento, condividerò il pestaggio, vabbè. Fa parte della nostra carriera, via. È un lavoro duro, ma che come si dice, risultati. Qualcuno lo deve pur fare. Bene, allora, dei Nice ancora, diciamo, rimane, siamo quasi a fine, anche per il semplice fatto che la loro carriera è stata breve ma intensa, come paragoni fatti in altre puntate che risparmiamo di ripetere. Praticamente il terzo album, che è album omonimo anche, quindi ritorna all'omonimia tra album e gruppo, tanto affermata, tanto rammentata nelle precedenti puntate fino a far bene in noia agli ascoltatori. Sì, la cosa strana è che questo è il terzo album, sì, che è omonimo e non il primo, in genere, visto era il primo ad essere omonimo. Invece i prog italiani avevano la tradizione, l'usanza di omonimare il primo album. O poca fantasia, forse. O poca. Io penso positivo. No, era più una tradizione. Prog 12 oggi è nichilista, pessimista, nichilista, snista, e vabbè. E quindi il terzo album omonimo dei Nice è un album che è per metà live e per metà studio, e comprende anche una cover di Bob Dylan, che è She Belong Me, qualcosa del genere. Mi cogli un po' impreparato, guarda. Vero, mi colgo anch'io impreparato. Comunque, c'è anche una cover di Bob Dylan che magari dopo vi diremo. E quindi, diciamo, questo è il terzo album dei Nice, che esce nel 68, e seguirà un altro album registrato dal vivo nel novembre del 69, che si chiama Five Bridges, e nel... E diciamo, questo va con questi due live, si va a chiudere quella che è stata l'esperienza Nice, giusto? Sì, l'unico appunto che mi risulta dalle mie fonti è che questo album è del 69. E io che ho detto? Avevi detto 68. Ah, sì? Sì, mi sembra. Vabbè, forse, comunque. Forse perché forse nel 69 è l'uscita, perché io mi ricordo che comunque nel 68 già stavano lavorando a questo album. Di sicuro. E te eri lì nello studio di Emerson, Lake & Palmer. Io facevo lavorare. No, dei Nice. Lavoravo con una cooperativa di sudamericani e facevano le pulizie negli studi discografici. Ero l'unico italiano. Va bene. E quindi diciamo l'esperienza Nice si chiude nel 71 con l'uscita di Elegy, che dopo manderemo, scelto appositamente da Prog 17, manderemo America di Bernstein, Leonard Bernstein, che è tratto da West Side Story. E con questo, con Elegy, che esce nel 71, si chiude quella che è stata l'esperienza Nice. E, diciamo, l'ultima nota, ecco, poi manderemo la musica, l'ultima nota riguardante i Nice, che si sono riuniti nel 2002 e hanno fatto un live in England, è uscito un live in England e l'album si chiama Vivacitas o Vivacitas, non penso Vivacitas, sì, o Vivacitas, Vivacitas, Vivacitas, seguimos Vivacitas, che c'è Vivacitas, che esce nel 2003. E questi erano, e loro sono i Nice, e vi mandiamo dei Nice, The Nice Diary of an Empty Day, tratto dall'album Nice, e appositamente scelto da Prog 17 dall'album Elegy, altro live del 71, America. Loro sono i Nice. Season, to lose your wits or your reason. It comes and goes without warning. It might be today or the morning. I can't think what to say. My mind's a blank today. I want to write restless music, but my head's all set to refuse it. This music, no reason I had to abuse it. I can't think what to say. Ok, bene, bene, bene. E allora, questo era America di Nice con Emerson alle tastiere, che praticamente lui scappava e il bassista e il batterista lo rincorrevano. Non so come facevano a stargli dietro. Perché poi non abbiamo detto prima, ce lo stavamo ricordando proprio ora con Prog 17 e un quarto, che abbiamo letto, tra le tante particolarità, tra le tante notizie che stiamo dando dei vari di Emerson, Lake & Palmer, che nei Nice praticamente il chitarrista poi si ritirò. Dopo il primo album è andato via perché aveva capito che non aveva molto spazio. Non si sa se è finito anche lui a fare la comparsa nei Noi Ragazzi dello Zoo di Berlino, non si può essere un'opzione valida. Però vabbè. E quindi comunque, questo era America di Leonard Bernstein, che sembra che non fu molto contento della loro interpretazione in quell'epoca, perché comunque lui era uno di quei compositori contemporanei che vi dicevo, famoso per West Side Story, un'opera contemporanea che più o meno, essendo americana, si stava trasformando un po' nel musical contemporaneo, appunto, nel musical di Broadway, però deriva anche quello dall'opera, un po' dall'opera classica. Sì, e ora l'ultima nota per chiudere il capitolo Kate Emerson è che lui, quando diciamo si dichiararono sciolti gli Emerson, Lake & Palmer, e poi si è un po' lanciato nella carriera solista che lo portò a comporre colonne sonore, diciamo la più celebre è quella, è la colonna sonora del film Inferno del 1980 di Dario Argento. Lo ricordiamo perché c'è, almeno così sapete e credete che non spariamo cazzate, perché Dario Argento, ricordiamo che alcune colonne sonore dei suoi film sono state fatte dai Goblin, che in una delle puntate del Rovescio della Medaglia abbiamo presentato e approfondito, che hanno collaborato a scrivere a livello chiaramente musicale quello che erano le colonne sonore di alcuni film di Dario Argento, tipo Suspiria, Profondo Rosso. Bene, vogliamo dare qualche informazione più o meno interessante? Sì, io prima delle informazioni farei i nostri consueti saluti ai nostri ascoltatori, tra cui Stefano, che era in trasmissione con noi 2-3 settimane fa all'ultimo programma, quello del 3 gennaio. Oggi non poteva venire Stefanino. Non voleva venire Proc 12, Stefanino, 17, Stefano, chi cazzo è Stefanino? Stefanino, salutiamo Stefanino che è arrivato ora in postazione radio e ci sta ascoltando. Ciao Stefanino, accomodati e ascoltaci, fatti due risate e ti comunque aspettiamo, prima o poi ti riaspettiamo qui in radio. Comunque Stefanino, puoi sapere che se ti sei perso la prima parte della puntata lo puoi riascoltare in podcast sul nostro sito wombat.noblogs.org. Oppure, diamo tutte le informazioni. Almeno ci sono. Oppure ci potete contattare per consigli, informazioni, ci potete chiedere quello che volete, ci potete, non lo so, insultare, fare quello che volete su il nostro indirizzo di posta, che è postawombat@insiberia.net. Ci trovate anche su twitter.com/radiowombatfi oppure su facebook.com/radio-wombat-firenze. Ok, allora andiamo avanti con la puntata, con la trasmissione, con la presentazione. E andiamo avanti con i satelliti di Emerson, Lake & Palmer. Questo è un satellite, diciamo, questo è un pianeta, non è proprio un satellite di Emerson, Lake & Palmer. Oserei dire un pianeta, infatti. Il primo gruppo di Greg Lake, che erano i King Crimson. Che tutti conoscerete, i King Crimson. che praticamente Greg Lake al basso, che ricordiamo ancora ci ha lasciato il 9 dicembre del 2016, praticamente compare nei primi due album dei King Crimson, vero Prog 12? Sì, In the Court of the Crimson King è il primo album, e il secondo è In the Wake of Poseidon. Okay. Allora, noi abbiamo scelto, come proprio questo, uno degli album più famosi, il primo di The King Crimson, In the Court of the Crimson King, e abbiamo scelto due pezzi. Diciamo due classici però che intramontabili, quelli evergreen. Intramontabili, perché uno è The Court of the Crimson King, che dà il nome all'album, e l'altro è Epitaph, che ovviamente per ricordare i nostri amici scomparsi, non c'è niente di meglio che Epitaph. Il primo disco del 1969, mi sembra. Sì. 1969, quindi gli stessi anni comunque dell'album The Nice e più o meno degli Atomic Rooster, no? Siamo sempre in quel triennio tra il 68 e il 70. Sì, dicevamo prima appunto con Prog 12 che sti tre personaggi praticamente a malapena dormivano, cioè dove trovavano tutto sto tempo per suonare in 600.000 gruppi e lasciare alla storia tutto quello che hanno lasciato. Suonavano e basta, loro dalla mattina alla sera suonavano, con un gruppo, con un altro, poi facevano le prove, poi andavano in tournée, perché comunque tutti questi componenti, tutti questi gruppi hanno avuto un successo immediato, no? Sì, perché poi appunto si parla dal 1968 fino a più o meno i giorni nostri, perché poi non abbiamo elencato tutti i live anche nei tentativi di ricostituzione della band, e quindi diciamo è stata un'attività lunghissima e intensa. Giusto. Sì, perché appunto uscivano anche due dischi nello stesso anno, più tutta l'attività, la fortunata attività live che li impegnava. Sì, che maniera... li impegnava a parte che hanno girato il mondo, quindi appunto, capito, era anche un'attività live, non è che suonavano, ne so, nei vari localini di Londra e dintorni, in Inghilterra per intendersi, no? E hanno tournée mondiali, insomma, è di un certo spessore, di un certo livello, ecco. Comunque, dedichiamo questo primo pezzo Epitaph a tutti, diciamo, gli artisti che ci hanno accompagnato in questi nostri anni di vita, soprattutto appunto a Emerson e a Lake, e tutti quelli che ci hanno lasciato nel 2016. Mi fai piangere, mi fai emozionare, chi la fa la puntata? Vabbè, gli Epitaph, King Crimson con Epitaph. Nightmares.

The rusty chains of prison moons are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. soft gray mornings, widows cry, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. He smiles as the puppets dance in the court of the crimson. Ok, allora avete appena ascoltato due classici dei King Crimson, Epitaph e The Court of the Crimson King. E qui c'è uscita quasi la lacrimuccia su Epitaph. Sì. Anche per tutta una serie di ricordi non ricordabili, quantomeno pubblicamente. Vabbè, diciamo che con i King Crimson abbiamo chiuso quella che è stata la presentazione dei gruppi satellite, contemporanei e non, che hanno accompagnato la carriera degli Emerson, Lake & Palmer. E quindi ora passiamo proprio, entriamo nel cuore della trasmissione, oserei dire, Prog 16. Sì, andiamo avanti fino alla fine con diciamo quello che per noi è stato il massimo della discografia di Emerson, Lake & Palmer. Abbiamo fatto anche qui una selezione, purtroppo, diciamo anche sì, abbastanza diciamo breve. Sì. Sì. Però uno o due pezzi per ogni album, visto che comunque hanno avuto una grande carriera, non tanto lunga, ma hanno pubblicato molti album e anche molti live. Sì, diversi live. Quindi, più o meno famosi e storici e non. Famosi slash storici e non. Vabbè, se vogliamo passare a presentare, lasciamo sottofondo, lasciamo minimo di sottofondo e andiamo a presentare quello che è stato l'incontro tra questi tre artisti, appunto Emerson, Lake e Palmer, che uscivano più o meno da altre esperienze, e inizialmente l'incontro è stato tra Emerson e Lake, che Lake stava uscendo da King Crimson con una piccola disputa per il nome con Robert Fripp, che era il chitarrista e diciamo un po' l'istrumentista di King Crimson, che ancora ne fa parte, perché King Crimson ancora sono attivi. Cioè una piccola parentesi, negli anni hanno aumentato le batterie che portavano sul palco, ora sono arrivati a tre batterie con tre batteristi. Sì, infatti. E continuano, insomma, la loro nemmeno carriera. Mondial Casa, cioè tutte ste batterie. Vabbè. Battutare merda. Ok. Comunque l'incontro tra Emerson dai Nice e Lake dai King Crimson mi fa notare Prog 1 che sono incontrati la prima volta il 12 dicembre 1969. Una delle teste ricche per le storie contemporanee italiane, una delle teste storiche, perché ricorderemo tutti il 12 dicembre 1969, cos'è successo? Prog 12. Diciamolo seriamente. È stato una casualità assurda, ma è così. Si sono conosciuti, si sono incontrati per la prima volta il 12 dicembre del 69, che tutti ricordiamo, spero, c'è la data della strage di Piazza Fontana a Milano. Quindi appena abbiamo letto la data, c'è subito saltato in mente questa data tragica e triste. Ok, andiamo avanti. Che racconti te? Racconto, allora vado un po' avanti io su questa sì. esperienza, sì, che poi vi dirò perché. Perché Emerson e Lake stavano cercando un batterista. E tra, diciamo, tra i nomi, penso abbia fatto anche proprio delle audizioni, questo batterista era il batterista della Jimi Hendrix Experience, che era Mitch Mitchell. E in quegli anni già Jimi Hendrix era, diciamo, a fine carriera. E hanno provato solo con il batterista, con questo Mitch Mitchell, e poi girano voci, non è niente di fondato, che abbiano provato anche con Jimi Hendrix. Però i locali che frequentavi giravano queste voci. Giravano queste voci, anche su delle riviste specializzate dell'epoca, che mi sembra un po' strano perché comunque, cioè, mettere due centravanti così come Emerson e Jimi Hendrix insieme, non so come... No, un po'. Sì, cioè, due c'entrano due galli nel pollaio, facciamo vari riferimenti. Infatti. Era un po'. Sarebbero sovrastati comunque, no? L'uno con l'altro, perché comunque. Sì, però potevano fare tipo Fight Club. Si scontravano. Vabbè, via. Comunque, non va in porto nessuna delle due cose, e sempre in quell'anno conoscono appunto Palmer, che entra subito, piace subito agli altri componenti del gruppo, e entra subito a far parte di Emerson, Lake e Palmer. Poi diventeranno Emerson, Lake e Palmer. Continuo io? Continuate, facciamo un po', passiamoci la palla. Sì, perché praticamente i tre debuttarono dal vivo il 23 agosto del 1970 al Guild Hall, perdonate la pronuncia, di Plymouth, mentre la loro seconda apparizione live in assoluto, quindi loro cominciano praticamente la loro carriera con delle apparizioni live, ossia, quindi già questo Prog 13 spiega tante cose, perché un gruppo, cioè tre che si conoscono e partono subito con delle apparizioni live, e poi tra l'altro la seconda apparizione live in assoluto e alla terza edizione del Festival dell'Isola di Wight, quindi non è che capisci che era la terza edizione, ma è quella che si ricordano tutti come l'edizione più importante, sì, quella famosa dai 600.000 spettatori, esatto, dove possiamo citare molti altri, sì, artisti, come diciamo nel programma del festival c'erano nomi appunto come Hendrix, Johnny Mitchell, i Doors, The Who, i Jethro Tull. Quindi insomma anche di un certo spessore, ecco. E proprio diciamo dopo questa apparizione live e decidono, cioè, quasi facciamo un LP, facciamo un disco, tanto ci siamo. Tanto per, e praticamente nel 1971, nel gennaio del 1971, i tre entrano in studio e registrano il primo album, anzi no, è nel 70, scusate, nel 71 è il secondo album. Nel 70 loro registrano l'album omonimo, quindi mantengono la tradizione prog rubata agli italiani, diciamolo, ai gruppi prog italiani, esce l'album omonimo Emerson, Lake & Palmer, di cui che possiamo dire altro dell'album, o presentiamo direttamente i pezzi, Prog 12? No, presentiamo direttamente i pezzi che sono The Barbarian e Lucky Man, che è forse uno dei più famosi di Emerson, Lake & Palmer, dove si esibisce in una performance di tastiere, di Hammond, di Moog, sintetizzatori, tutto quello che aveva. Sì. Lo butta là. Ho usato il sintetizzatore modulare Moog, quindi è il mini Moog, quindi un po' anche, diciamo, Questo è uno delle tante note, appunto, che ha cominciato a sperimentare oltre all'Hammond altri sintetizzatori, e quindi un po' abbastanza sperimentali a bestia, oserei dire. Sì, sì, appunto, ne usava, ma anche dal vivo, come si diceva prima, li usava tutti contemporaneamente praticamente, perché lui era circondato da un muro di tastiere di vario genere, sintetizzatori, tastiere, Hammond, organi, quello che aveva è quello che portava sul palco. Esatto, esatto. Gli si vedeva solo la fronte uscire da questi muri di tastiere. E non era nemmeno basso, quindi. No, no. Poi ogni tanto si alzava in piedi, dava pedate alle tastiere, come sì, così. Testate, coltellate, di tutto. Va bene, allora manderemo in successione Barbarian e Lucky Man. Loro sono gli Emerson, Lake and Palmer, dal primo album omonimo del 1970. Sempre qui su Radio Wombat. And ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. years they made up his bed, a gold covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ok, bene, bene, bene. Allora, questo secondo te era un Moog o un mini Moog? No, questo è un mini Moog. Mini Moog. Sì, perché per diversi anni l'ho usato in tournée, solo ed esclusivamente in tournée, quindi riconosco il suono, è un mini Moog. Perfetto, poi, grazie. Poi l'ho regalato, e, però no, per dei motivi che pubblicamente non posso raccontare. Va bene, andiamo avanti con il prossimo album. Il prossimo album, esatto. Il prossimo album esce nel 71, quindi a qualche mese dopo, e l'album si chiama Tarkus, di cui c'è l'omonima suite, che è scritta interamente da Emerson, e praticamente che occupa la metà dell'album è occupata da questa suite omonima. È anche da sottolineare, o quantomeno notizia interessante, ricordare che in questo album ci sono stati un po' di screzi, di incomprensioni via, e quindi c'era il rischio di scioglimento del gruppo, che per fortuna invece no, poi si sono capiti, si sono chiariti, e quindi hanno continuato, per la gioia delle nostre orecchie, a produrre. E di quest'album, Tarkus, tra l'altro una copertina molto molto bella, molto metafisica, questa specie di Tarkus, questo animale, un armadillone cingolato, un armadillone cingolato che posseggo, tra l'altro, questo LP è molto bello. L'LP, non l'armadillone. No, entrambi. Cioè anche una, lo tieni in casa l'armadillone cingolato. L'armadillone cingolato ce l'ho parcheggiato e su ci ho poggiato l'album perché era interessante, era bello, mi sembrava abbastanza artistico metterli insieme. E di questo album presentiamo Beaches Crystal, e loro sono Emerson Lake and Palmer dall'album Tarkus. Allora, siamo al secondo album degli Emerson, Lake & Palmer, appunto Tarkus, e il terzo album, che lo lascio presentare a Prog 12 e 3 quarti. Stiamo parlando di Tarkus. Il terzo album, lo presento io e te, sì, te presenti tutto, presenti, il resto. Lo presenti? No. Presentalo te, Tarkus, che ci sei più affezionato. Bello fatto. Va bene, ricomponiamoci un attimo. Ricomponiamoci. E arriviamo subito all'album successivo del 1971, che è un album live, perché nel 1971 al City Hall di Newcastle si esibiscono dal vivo e la seconda parte del concerto viene pubblicata con il titolo di Pictures at an Exhibition. tratto palesemente, volontariamente, dai famosi quadri ad un'esposizione di Mussorgsky, che riadattano la musica, sempre prendendo con il loro stile prog e tastieristico, la famosa opera appunto di Mussorgsky. E di questo album, appunto, del 1971, vi faremo sentire The Cards of Baba Yaga, che possiamo dire anche dove è stato registrato al Newcastle City Hall il 26 marzo 1971. Oh, stasera siamo precisissimi, siamo con le date proprio su parte dei cali spaccate, parte dei cali di pressione, degli sguardi di ansia, sì, perché, del terrore. Prendi, vi dico la verità, stavo cercando, perché dopo quegli anni fondano la loro casa editrice, la loro etichetta discografica. Questo lo dovevo dire io, è come all'elementare, quando il maestro chiedeva un qualcosa, io lo so, tiravi subito il dito. Stavo cercando, va bene, comunque. Sì, poi, cioè, è brutto, perché mi ricordo quando tiravo su subito, io lo so, c'erano tutti gli amichetti, chi mi sputava addosso, chi mi tirava matite, ci siamo confusi penne. Sulla scaletta, va bene. Comunque, questo è Pictures at an Exhibition di Emerson, Lake & Palmer, The Courts of Baba Yaga. Ok, allora continuiamo. Abbiamo appena presentato The Curse of Baba Yaga, tratto dall'album live Pictures at an Exhibition del precisamente il 26 marzo 1971. E nello stesso anno, precisamente ad ottobre, il gruppo comincia a preparare il terzo album che poi uscirà nell'estate del 72, che si chiama Trilogy, di questo album vogliamo presentare Oe Down, spero la pronuncia sia corretta, loro sono i Emerson, Lake & Palmer, e l'album è Trilogy. Ok, allora siamo arrivati al 1973, e mentre per quanto riguarda la presentazione degli album, questo era il terzo album, Trilogy, vero? Esattamente. E, allora, nel 1973, e facciamo un po', continuiamo sempre a fare un po' di storia del gruppo, e i tre praticamente tornano da una tournée e decidono di comprare, ci compriamo un ex cinema. Quindi comprarono quest'ex cinema. Diamo anche l'indirizzo, magari. Diamo l'indirizzo, sì. Dai. Ci facciamo carico poi delle conseguenze. Sì, magari qualcuno che va a Londra va a vedere in quell'indirizzo che c'è, se c'è qualcosa. Comunque va bene, comprarono quest'ex cinema al 392 di North End Road a Fulham, penso sia un quartiere di Londra. Un quartiere di Londra, te che hai vissuto a Londra per diversi anni. Sì. Ok. E praticamente che lo trasformano in sala prove e poi danno vita non alla casa editrice che diceva Prog 13, ma a un'etichetta discografica. Sì, ma è una cosa che edita altre cose, dei dischi invece dei libri. No? E anche comunque loro li scrivevano i pezzi, quindi in qualche modo erano anche scrittori. Comunque vabbè, danno vita a questa etichetta discografica che chiamano, come abbiamo detto prima, Manticore Records, che noi siamo litigati a chi lo diceva prima, che nasce dall'omonima da questa creatura mitologica che è stata raccontata nell'album Tarkus e che poi, analizzandola più a fondo con Prog 13 e tre quarti, ci siamo accorti che praticamente la stessa è questa creatura mitologica degli Etruschi, aiutami a ricordare, sì, che è stata, non so, toscano. È stata, quando... Era prima una figura mitologica greca e poi dopo è diventata il simbolo di Arezzo degli Etruschi, che è la chimera, si chiama, che è un animale con la coda di serpente, una testa di leone, il corpo con una testa di capra. Sono un po' di animali. Ah, sì, sì. Mischiati insieme. Lucky Man, Lucky Mer. La chimera. Si chiamava Lucky Man. Chiamata Manticore. E diventa il logo, proprio il logo da quel momento in poi di Emerson, Lake & Palmer, fatto anche quello da Giger. Ricordiamoci anche che la Manticore Records, sempre per dare un filo continuo a tutte le minchiate che spariamo, ha prodotto gruppi come il Banco del Mutuo Soccorso e la PFM. Poi magari altri. Mi sembra altri gruppi, però ora no. Diciamo quelli più famosi, quelli più famosi, più conosciuti nel quello che era la scena prog italiana, ha prodotto sia i Banco del Mutuo Soccorso che la PFM. E sempre nello stesso anno, quindi stiamo parlando del 1973, esce vogliamo esagerare, Prog 12. Esageriamo. L'ultimo album, secondo noi, valido degli Emerson, Lake & Palmer. Sì, l'ultimo grande album di questa breve ma intensa carriera di Emerson, Lake & Palmer, che si chiama Brain Salad Surgery, che sta la grafica di questa copertina fu affidata all'illustratore svizzero, appunto, come ha ricordato prima Prog 13, a Giger, che è un album fantastico, che si apre, cioè questa una copertina apribile con queste tematiche care a Giger, teschi, metà uomini, cioè metà umani e metà non riesco a termine, la corrente artistica vabbè, ve lo diremo. Un po' cyberpunk, un po' cyberpunk, è vero, un po'. Troviamo Giger, via. Non lo troviamo. Sì, no, troviamolo. Non lo Intanto, però, comunque... intrattieni i nostri ascoltatori. Intanto intrattengo, e comunque, come ho detto prima, questo album ha una copertina apribile con una, diciamo, un volto di donna. Con alcuni innesti, diciamo, cyber. Sì, cyber, sì. Sì, sì, andiamo lì. Esatto. Etichettiamolo noi, cyber e via. A me non ci si perde. E questo era comunque quello che secondo noi, non solo secondo noi, è l'ultimo grande album di Emerson, Lake & Palmer. E da questo brano vi facciamo ascoltare una toccata, tanto per rimanere in termini, diciamo, di musica classica. Però prima di lasciarvi con questo pezzo, vi volevo ricordare che noi, come Radio Wombat, siamo in cerca ancora di un logo. A proposito di logo, non possiamo chiamare Giger perché è già un po' stato sfruttato. Cerchiamo un logo originale. E abbiamo indetto un bando di concorso per i nostri ascoltatori e non solo, per creare appunto il logo di Radio Wombat. E potete scrivere, potete mandare il vostro logo, che sia adattabile in qualsiasi forma, tipo cartacea o per i nostri social, sul nostro sito di posta elettronica, postawombat@insiberia.net. Vi potete trovare il bando con le regole, come inviarci appunto questo simpaticissimo logo, ovviamente ispirato al Wombat. Okay. Comunque, andiamo allora con... Presentiamo quello che è l'ultimo pezzo e poi anche il pezzo di chiusura, un simpatico pezzo di chiusura. Sempre tratto da Brain Salad Surgery. E praticamente il pezzo che andiamo a presentare si chiama Toccata and an Adaption of Ginasteras. Quindi è praticamente questo pezzo, leggiamolo per intero. Il brano si chiama Toccata ed è un adattamento del quarto movimento del concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Alberto Ginastera. Quindi questi grandissimi che noi abbiamo scelto e che ora mandiamo, e poi io penso che prima di presentare l'ultimo pezzo si va con i doverosi saluti e con i prossimi appuntamenti. E con i prossimi appuntamenti, via. Quindi beccatevi questa toccata qui su Radio Wombat. Thank you.

Ok, allora siamo a fine puntata, abbiamo fatto un po' di ricerche su Giger, Prog 12, deve avere la dignità di fare errata corrige. Sì, è un altro epitaffio perché abbiamo scoperto che Giger è morto nel 2014, quindi... al logo non può più partecipare. Però sì, la parola che non ci veniva in mente, che era il suo stile tra inserti umanoidi e meccanici, si chiama appunto la biomeccanica. Era semplice, ma non ci veniva. Comunque, vi lasciamo per questa settimana. Vi diamo appuntamento con un altro special la prossima settimana sugli Area. Non diamo nessuna anticipazione, no? Non diamo nessuna anticipazione. Comunque gli Area l'abbiamo presentati alla prima puntata e ci sembrava doveroso, comunque come uno dei più grandi gruppi italiani, di fare uno special proprio sugli Area. Con tante notizie, tanti scoop. E... certo, e ospiti dal vivo, come sempre. Ospiti live, sì. No, oggi in realtà avevamo un cane come ospite. Un quadrupede, però. Sì, non è stato molto partecipe. Un cane bio, ci deve sottolineare biomeccanico. Un cane biomeccanico. Che, è quello che si sta. Per metà cane e per metà turbina di un Boeing 747. Sì, che non ce la fa più e vuole uscire dallo studio in tutti i modi. E ora lo lasciamo andare e vi lasciamo in compagnia di un altro brano tratto da Brain Salad Surgery, che si chiama Benny the Bouncer. Ciao a tutti e ci sentiamo martedì prossimo, vero? Ti ho interrotto miseramente. No, ci sentiamo martedì prossimo con lo speciale sugli Area, qui su Radio Wombat. Your granny's face, I've given half a chance. He'd sell you back to pieces, all for less than half a quid. He thought he was the meanest until he met with Savage Sid. Now Sid, he was a greaser with some nasty boots. He pulled a pint of Guinness over Benny's boots. Benny looked at Sidney, Sidney stared right back in his eye. Sidney chose a switchblade and Benny got a cold meat pie. Oh, what a terrible sight. Much to the people's delight. What hell of a fight! From the wreckage of the playing bits, they tried to stick together all the bits that would fit. But some of him was missing, the part of him arrived too late. So now he works for Jesus as the bouncer.